fies mai simplă mai d'un plan. As muder jau mai tocan sil san. Bu priuris guard sin mi winter. Mice tonzem da mondi au per chai. Che ho vai show venir ta isurmai. Io era len, tu possess, ti as mai sutta mes. Io jevel na puti jeves che. Io jevel alf puti jeves me. Io level buge ti as furzau. Ti as magari lasci e cresce il pezzo.